settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, l'incontro tra Forlì e Ravenna, ma direi che si estende ovunque. Intanto io do il buongiorno, che è qui con noi, al dottor Maurizio Tarantino. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. Di che si tratta? Entriamo nello specifico per quanto riguarda quest'unione tra le due città romagnole a proposito di questi 700 anni. Diciamo che la collaborazione tra i musei di San Domenico e il comune di Ravenna e in particolar modo il Museo d'Arte della città non è del tutto una novità, nel senso che scontistiche reciproche erano state fatte anche negli anni precedenti. Ora però quest'anno è l'anno del settecentenario di Dante, che come sa bene, insomma, come può immaginare, per Ravenna ha un significato particolare, perché noi di Dante non abbiamo nulla, non abbiamo una riga scritta da lui, non abbiamo nulla, diciamo, nessuna testimonianza della sua vita materiale, se si escludono, diciamo, le sue ossa, che riposano da 700 anni nella tomba di Ravenna, una tomba che è visitata ogni anno da 500.000 persone. Quindi ecco, capisce bene che quest'anno la collaborazione con Forlì doveva, diciamo, essere un po' speciale, e quindi ecco la mostra importante che fanno i musei di San Domenico diventa, diciamo così, per il comune di Ravenna un'occasione, e le nostre mostre, le mostre che come comune di Ravenna noi abbiamo realizzato, in qualche modo vengono, come posso dire, anche completate dalla grande mostra di Forlì, nel senso che noi a Ravenna abbiamo voluto, con il progetto Dante, gli occhi e la mente, mettere in luce da una parte, diciamo così, il ricordo del centenario precedente, che in qualche modo ebbe Ravenna come capitale, con Benedetto Croce che lo venne a inaugurare. Abbiamo voluto far vedere qual era l'arte che vedeva Dante ai suoi tempi e qual è stata la sua fortuna popolare. La mostra dei musei di San Domenico completa questo percorso con, diciamo, un po' l'arte che ha guardato a Dante, ecco, un po' così, diciamo, specularmente rispetto all'arte che Dante vedeva con i suoi occhi, ecco, come l'arte nel tempo ha guardato all'opera di Dante. E quindi per, diciamo così, sancire un po' questa convergenza culturale, intellettuale, storica, abbiamo voluto creare anche una convergenza, diciamo così, tecnica e logistica, quindi non soltanto una reciproca scontistica, ma anche un biglietto integrato, cioè chi verrà in Romagna quando le condizioni lo permetteranno, speriamo presto, potrà con un unico biglietto visitare le tre mostre ravennati, la mostra di Forlì, l'importante mostra di Forlì, e anche il nuovo Museo Dante, perché non dimentichiamo che accanto alla tomba a Ravenna stiamo per inaugurare, anche questo quando sarà possibile, il nuovo Museo Dante, un museo importante, un museo dove c'è molta, diciamo, multimedialità e interattività, ma dove ci sono anche reperti importanti. Allora abbiamo un percorso che va nei secoli in tutti questi motivi di incontro. Ma direi proprio di sì, è un percorso che parte dagli anni dell'esilio dantesco, con la mostra Le arti al tempo dell'esilio, con Giotto, Cimabue, Arnolfo di Cambio, Giovanni Pisano, va avanti per i secoli successivi con l'arte che si è ispirata in qualche modo a Dante, arriva al sesto centenario, quello del 1921, con il nazionalismo, il fascismo alle porte, ma anche con tanti, diciamo, spunti interessanti, con D'Annunzio eccetera, e arriva fino alla fortuna popolare, arriva fino alla fortuna novecentesca, con una intersezione importante anche di arte contemporanea, con opere di Edoardo Tressoldi, di Richard Long, con opere importanti che in qualche modo si ispirano così ai temi e alle atmosfere dantesche. Fra l'altro, ricordando il centenario scorso, fu anche strumentalizzato da delle squadracce nere, ricordo dalla appunto, cronaca. Appunto, dicevo, non c'era ancora il regime fascista, ma c'erano già i fascisti, ecco, ed è un momento quello dell'apertura a Ravenna del sesto centenario nel settembre 1920, è un momento veramente molto delicato per la storia italiana. Appunto le squadracce fasciste che in qualche modo vogliono appropriarsi di questo centenario, e nella mostra inclusa Esplam abbiamo anche delle foto molto insomma anche potenti, diciamo, di queste distruzioni che le squadracce fecero alla Casa del Popolo di Ravenna, ma il cuore del centenario per fortuna fu ancora tenuto, diciamo così, dal vecchio liberale Benedetto Croce, che all'epoca era ministro della pubblica istruzione. D'Annunzio non si presentò a Ravenna, ma mandò mandò tre aerei con questi sacchi dipinti da Adolfo De Carolis, quindi c'erano tutta una serie di fermenti strani, un po' particolari, con questa presenza inquietante dei fascisti che di lì a un anno avrebbero poi preso il potere. Sì, l'ha fatta in maniera d'annunziana, quindi, la presenza di D'Annunzio. Beh, sì, D'Annunzio appunto fu presente in modo d'annunziano. In realtà D'Annunzio era conteso tra Roma, Firenze e Ravenna, e quindi decise di non andare né a Roma, né a Firenze, né a Ravenna. E a Ravenna però all'inaugurazione dell'anno dantesco mandò questi tre sacchi, che sono appunto conservati nella Biblioteca Classense e sono nella mostra. Un'altra importante intersezione con il Louvre di Parigi. Sì, questa è un'intersezione importante, perché nella mostra Le Alpi al tempo dell'esilio, tra le opere che Dante potrebbe aver visto, c'è anche appunto questa Madonna, fine 200, inizi del 300, che adesso insomma è quasi certo che sia questa la Madonna che fu messa dai frati francescani a protezione della prima sepoltura di Dante. Questa Madonna fu poi così insomma avventurosamente arrivò alla metà dell'Ottocento al Louvre, e che ci siamo molto così spesi con Parigi, con il Louvre, per avere questo prestito importante, e l'annuncio di questo prestito lo daremo domani insieme con l'ambasciatore francese in Italia, con la vice ministra degli esteri, ovviamente con il nostro sindaco, con il nostro vescovo. Quindi sarà un annuncio importante quello che daremo, perché è un prestito oltre che di importante valore artistico, e che in qualche modo mette in contatto il Mar di Ravenna, la città di Ravenna, con forse uno dei più importanti musei del mondo, ma è anche un prestito di alto valore simbolico, perché questa Madonna con bambino probabilmente era il primo ornamento, fu il primo ornamento del sepolcro di Dante. Ma allora, gli artisti sono eterogenei, ma perché è eterogeneo, mettiamola così, il modo in cui Dante guardava all'arte. Dante aveva una grande attenzione, il titolo che abbiamo scelto per l'intero progetto è proprio un verso di Dante. Dante dice che l'arte deve tenere gli occhi per avere la mente, cioè deve prendere i sensi esteriori, però per conquistare in qualche modo il pensiero, ecco. Quindi Dante aveva un concetto dell'arte in qualche modo anche molto moderno, e guardava alle arti un po' nel suo complesso. La commedia è piena naturalmente di arti figurative, Giotto e Cimabue vengono citati naturalmente, ma è piena anche delle arti plastiche, la scultura, l'architettura, Ovviamente è presente la miniatura, Dante ricorda Odevisi da Gubbio, ricorda il Franco Bolognese che non sappiamo bene chi è, quindi diciamo che lo sguardo di Dante verso l'arte è uno sguardo eterogeneo e così abbiamo voluto in qualche modo riproporlo nella mostra, quindi accanto ai grandi artisti della pittura, Giotto, Cimabue, abbiamo anche scultori e architetti come Arnolfo Di Cambio, Giovanni Nicola Pisano, quindi è una mostra che guarda un po' a tutte le arti, c'è naturalmente anche l'arte del tessuto e la presenza di Dante a Verona l'abbiamo voluta ricordare con gli abiti funebri di Can Grande della Scala, quindi è una mostra che guarda un po' al complesso delle arti, non soltanto alle arti figurative. Anche la Galleria degli Uffizi, che con la Fondazione Cassa del Risparmio di Forlì ha ideato questo ricco percorso, un'altra collaborazione importante, gli Uffizi di Firenze. Gli Uffizi di Firenze che sono, diciamo così, parte integrante della mostra di Forlì, ma che hanno anche stabilito un rapporto importante con Ravenna, possiamo così immaginare anche un po' una specie di triangolazione, una grande mostra a Forlì insieme con gli Uffizi, un prestito importante, un Giotto straordinario dagli Uffizi a Ravenna e sempre a Ravenna, questo è molto importante, qualcosa che resta. E cioè una presenza stabile di opere degli Uffizi nel Museo Dante, a Casa Dante, di fronte alla tomba, gli Uffizi con una loro presenza stabile. Ok, a questo punto le limitazioni, le problematiche, domanda un po' particolare, anche se Opto Orto Collo non è che gradisca molto tutto ciò che è online e virtuale, anche se adesso purtroppo ci sarà modo, fino a che non si potrà, anche da altre città, finalmente quando potremo poi spostarci, ci saranno collegamenti online, progetti paralleli, motivi allora, di condivisione? Guardi, mi fa piacere che lei mi faccia questa domanda, perché avendo noi inaugurato la prima delle tre mostre del nostro progetto ad ottobre, ci siamo immediatamente posti il problema delle limitazioni e quindi noi per tempo abbiamo realizzato un virtual tour delle tre mostre. Naturalmente è un virtual tour che per la prima mostra, quella già allestita dedicata al sesto centenario, è un virtual tour della mostra così come allestita. Delle altre due mostre, Le Arti al Tempo dell'Esilio e Un'Epopea Pop, è un diciamo così virtual tour che fa così insomma scoprire le immagini delle opere presenti in mostra non ancora allestite, ma è un virtual tour che noi già abbiamo, ecco, i visitatori possono di fatto con questo virtual tour visitare la mostra Incluse Splam ed avere così un'anticipazione ma molto significativa delle due mostre che andremo ad allestire, un virtual tour che si può, a cui si può arrivare tranquillamente molto facilmente attraverso il sito del MAR, attraverso il sito vivadante.it. Io la ringrazio tantissimo, le auguro un buon centenario a questo punto, sperando di vederci presto. Grazie Io a lei. La ringrazio molto dell'augurio e lo in qualche modo rilancio a tutti i possibili visitatori che verranno alla Ravenna, un buon centenario anche a loro.